716. Gelatina di marasche o di visciole in gelo. Ciliegie marasche o visciole, grammi 400. Zucchero, grammi 200. Colla di pesce, grammi 20. Acqua decilite 3. Rum 3 cucchiaiate. Un pezzetto di cannella. Levate il gambo alle ciliegie e disfatele con le mani, unendovi qualche nocciolo pestato. Lasciatele così qualche ora e poi passatene il sugo da un pannolino, strizzando bene. Tenetelo ancora in riposo e poi ripassatelo più volte, magari per carta o per cotone, onde rimanga chiaro. Fate bollire lo zucchero per 10 minuti in 2 decilitri della detta acqua con la cannella dentro. Passate anche questo dal pannolino e mescolatelo al sugo delle ciliegie. Aggiungete la colla sciolta nel rimanente decilitro di acqua e per ultimo il rum, regolandovi come per le precedenti gelatine.